tutte le volte che il cane le sporca, e sono particolarmente igieniche. Questo per i primi tempi, poi in un secondo tempo, quando sarà vaccinato, imparerà a farla fuori casa. Una volta insegnato questo, il cane non sporcherà più in casa, cioè, aspetterà di essere portato fuori. Poi ricordiamoci anche questo: il cane va di corpo subito dopo mangiato, quindi è in quel momento che devi insegnargli ad andare di corpo in un determinato posto. Quando è cucciolo, quando è molto piccolo, la farà in casa su queste traversine o su dei giornali, e quando sarà un po' più grande imparerà, cioè subito appena mangiato il cane deve fare la sua passeggiata, perché ha bisogno di fare i suoi bisogni. Se invece il cane, dottor Cervia, è stato preso dal canile, che consigli possiamo dare? Specie gli animali che hanno vissuto questo tipo di esperienza sono più timorosi, insomma animali un pochino più difficili, no? Da seguire con più attenzione. Ecco, certo, direi che questo è un gesto, è un nobile gesto, è molto importante, perché comunque nei canili ci sono tantissimi animali che aspettano di essere adottati. Ora, il cane che viene preso nel canile è un cane che ha sofferto, un cane che ha vissuto in gabbia, quindi ha bisogno di un po' più di attenzione e un po' più di... cioè il proprietario di questi animali deve essere consapevole della vita precedente del suo cane e quindi deve avere molta più pazienza. In realtà sono cani comunque molto intelligenti, che sono abituati a cavarsela da soli, quindi ripagano questo gesto del padrone con un amore immenso, e di solito sono i soggetti migliori. E per oggi è tutto, dottor Cervia, grazie, la saluto, buona giornata. Grazie a lei. E per questa puntata è tutto, vi ringrazio per essere stato con noi, appuntamento a domani per Questa casa non è un albergo, e lunedì sempre con la salute dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.